giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Passata la tempesta, la situazione del meteo si è stabilizzata con temperature più basse e arrivo della bora che ha spazzato il cielo dalle nuvole. Continua intanto la conta dei danni con il sorvolo dell'elicottero della Protezione Civile sulle zone più colpite dal maltempo. La situazione più critica rimane quella di Mortegliano, dove oltre ai danni si registra la mancanza di teli per coprire i tetti delle case scoperchiate. Disagi anche a Bicinicco. Sono ingenti i danni anche alle strutture e alle produzioni agricole su vaste aree del territorio regionale. Le prime stime contano già diversi milioni di euro di danni. Incontro in prefettura a Trieste tra i sindacati FIALS, CGIL e CISL e la direzione di Asugi in merito all'avvertenza per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato in scadenza da qui a fine anno. Imprenditore percepisce reddito di cittadinanza ed evade oltre mezzo milione di euro in 3 anni. A individuarlo i finanzieri del comando provinciale di Gorizia dopo verifiche fiscali. Il comitato No Ovovia ha fatto il punto sullo stato dei procedimenti relativi alla realizzazione della cabinovia e ai pareri rilasciati in merito ai vincoli posti dalla direttiva comunitaria sui siti di Natura 2000 per il Bosco Bovedo. È il signore delle formiche di Gianni Amelio ad aggiudicarsi il premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, che si conclude oggi a Gorizia con la serata finale. Le 12:31 minuti e 40 secondi in questo istante, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettig a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 26 luglio. Temperature in netta discesa nelle ultime ore perché sulla regione è affluita aria più fresca e secca proveniente dal nord Europa, ma anche bora che soffia insistente da ieri sera sulla costa, in particolare su Trieste, con raffiche oltre 60 km orari. E la situazione meteorologica attuale in Friuli Venezia Giulia, dove anche ieri sera si sono verificati temporali violenti, soprattutto sulla costa, fenomeni però non paragonabili assolutamente a quelli devastanti della notte precedente e che non hanno causato danni. In altre parti della regione invece si allunga la conta dei danni e proprio per fare il punto della situazione di primo mattino si è svolto un incontro nella sede della Protezione Civile a Palmanova con l'assessore regionale Riccardi, che poi ha effettuato anche un sorvolo in elicottero sulle zone più martoriate dal maltempo. E sono migliaia le segnalazioni di danni che i viticoltori hanno inviato all'associazione di categoria. Danni forti si sono verificati soprattutto nell'area del Coglio e più in generale nel Goriziano. Il punto più critico però attualmente rimane a Mortegliano, dove da ieri è attivato il centro operativo comunale con funzioni tecniche di pianificazione, di sanità, assistenza sociale e veterinaria e di assistenza alla popolazione. E c'è assoluta carenza di teli per coprire i tetti scoperchiati. Ancora disagi per la popolazione anche a Bicinicco. C'è fame di teli a Mortegliano, teli per coprire quei tetti quasi tutti permeabili dopo che le tegole sono state frantumate dalla grandine, ma i teli mancano. La Protezione Civile ieri ne ha distribuiti un centinaio, non sono bastati, altri stanno arrivando. Intanto i cittadini attendono e si mettono in fila davanti al comune per entrare nella lista d'attesa di chi ha bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. Ad ora sono circa 200 cittadini. In molte case continua a entrare acqua, anche perché le piogge sono proseguite nella notte e dovrebbero tornare nelle prossime ore. 7 persone hanno dormito a Morsano di Strada, stanotte nel centro civico messo a disposizione per gli sfollati, la loro casa è inagibile, non avevano altro posto dove andare. Rimangono 2 famiglie di stranieri con minori senza un alloggio, si sta cercando una soluzione con la chiesa. Un segnale di ripartenza arriva dal bar della piazza che dopo il giorno di chiusura di ieri ha riaperto. Nella stessa piazza c'è coda, anche davanti a una filiale di un'assicurazione. L'elicottero della Protezione Civile ha sorvegliato Mortegliano stamattina ed erano evidenti i danni dall'alto, non solo sulle abitazioni, la casa di riposo e il poliambulatorio sono stati infatti evacuati. Eppure la scuola media è inagibile. Nel circondario si lecca le ferite anche Bicinicco. Minuti di terrore per i 20 volontari che lunedì sera stavano smontando ciò che era stato installato per la festa della Trebbiatura. Il capannone si è alzato ed è stato parzialmente divelto. Anche a Bicinicco diverse case hanno subito gli stessi danni che hanno patito quasi tutti gli edifici di Mortegliano. Nella zona problemi anche per Flumignano e Talmassonse. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E anche in Friuli Venezia Giulia sono ingenti i danni alle strutture e alle produzioni agricole a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito vaste aree del territorio regionale. Le prime stime contano già danni per diversi milioni di euro, lo ha affermato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zanier, il quale ha reso noto che i funzionari della direzione centrale stanno quantificando i danni che si riferiscono non solo agli eventi atmosferici tra il 24 e il 25 luglio, ma anche a quelli dal 13 luglio scorso e poi ancora tra il 18 e il 19 luglio, ed è in corso la perimetrazione delle aree maggiormente colpite. Si stanno inoltre attivando le procedure per richiedere il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento dannoso al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, oltre ad altre possibili forme di intervento a sostegno delle aziende agricole e della Regione. Si è trattato di grandinate senza precedenti accompagnate da venti straordinari e piogge torrenziali che hanno provocato enormi danni devastando le coperture delle stalle, delle serre, dei capannoni agricoli, ha ricordato Zanier, distruggendo le reti antigrandine a protezione delle colture che non hanno potuto reggere l'impatto di chicchi di grandine di dimensioni straordinariamente rilevanti. Ingenti anche i danni alle colture agricole, così come vengono segnalati pesanti danni anche agli impianti di irrigazione rovesciati dalla furia degli agenti atmosferici. E in mattinata sono ripresi i sopralluoghi anche nel Pordenonese, altra zona devastata dal maltempo e dalla grandine. In mattinata al sorvolo sulle aree del Friuli occidentale più colpite dal maltempo, l'assessore con delega alla protezione civile Riccardi ha poi incontrato i sindaci dei comuni di Sacile, Caneva e Brugnera per fare il punto sui danni. L'assessore Riccardo Riccardi. Adesso bisogna codificare i danni e distinguerli tra le attività produttive da quelle delle abitazioni o dei danni alle persone e poi il patrimonio pubblico. Noi stiamo raccogliendo le informazioni, con i sindaci dobbiamo mettere in campo le misure che garantiscono l'assistenza alle persone e poi con la stima dei danni dobbiamo anche discutere col governo le misure che potranno essere messe a disposizione. A Brugnera pesantemente colpito il cuore della zona industriale del mobile, il sindaco Renzo Dolfi. Io penso che le aziende colpite siano almeno l'80%, ci sono industriali, artigianali e anche di logistica. In questa azienda sono saltate vetrate e coperture con danni stimati per oltre 1 milione di euro tra struttura e materiali. La titolare dell'azienda Artesi, Clara Verardo. Questo capannone dove ci troviamo ora, che è completamente da rifare, e ha danneggiato tutto il capannone, quindi ha preso di mira il magazzino verticale e tutto il materiale che c'è dentro. Abbiamo inoltre un'altra struttura ristrutturata appunto nel 2018, dove abbiamo fatto una guaina nuova ed è stata seriamente danneggiata. Fermo produzione e un centinaio di operai a casa per quest'altra grande azienda del mobile. Edi Polesello è l'amministratore delegato della Maronese. L'acqua sta penetrando dappertutto e ha rovinato tutto il materiale. Non abbiamo materiale per poter produrre e non sappiamo neanche cosa produrre. Un 70-80% del materiale sarà rovinato. Ha un'idea dell'ordine di grandezza del danno? Saranno milioni di euro qui i danni. Brugnera, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora quindi capiamo qual è la situazione del meteo al momento attuale, che vede cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa a Trieste, ci sono 23 gradi con mare poco mosso e temperatura di 24 gradi. A Pordenone 25 gradi, a Udine 24, a Gorizia 23 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 19 gradi, a Tarvisio 18 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, 15 gradi a Sappada, 14 gradi e mezzo a Piancavallo, sul Monte Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 9 gradi e mezzo, sulla costa a Lignano 23 gradi e 5 decimi, qui la temperatura del mare di 24 gradi, a Grado 24 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 25 gradi e mezzo. E queste le previsioni per le prossime ore, cielo in genere variabile con atmosfera più fresca e secca dei giorni precedenti e bora in attenuazione. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci e qualche temporale inizialmente sulla zona montana, in veloce spostamento verso pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere più forte con locali raffiche di vento. Per domani invece tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso per veratura in quota, possibile qualche maggiore annuvolamento sui monti e brezza sulla costa. E sono ancora diverse centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in attesa nell'ex provincia di Udine relativi all'ondata di maltempo tra lunedì e martedì, in particolare per tetti scoperchiati con infiltrazioni di acqua, almeno 200 quelli ancora in coda a Pordenone, mentre nel Goriziano ne risultano in sospeso ancora una trentina. Spostare alberi, liberare strade e poi tetti da mettere in sicurezza con le tegole distrutte e la pioggia che ha devastato solai e piani interi. Sono queste soprattutto le tipologie di intervento che hanno impegnato i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia dopo la grandinata che ha colpito e piegato gran parte della regione. Sono circa 250 gli interventi nella ex provincia di Udine, con 300 in coda e quasi 800 ancora da smaltire. Per il personale impegnato a gestire l'ordinario e lo straordinario, il doppio rispetto al periodo in condizioni normali, si prevede che i lavori andranno avanti almeno fino alla fine della settimana. A dare una mano sono venuti anche dalla Spezia. Le squadre delle regioni vicine, Veneto e Lombardia, sono impegnate nella gestione delle emergenze locali. Nel Pordenonese si contano finora 130 interventi con una coda di 250 ancora da smaltire. 7 squadre al lavoro, turni di servizio raddoppiati e se ne avrà per almeno una settimana. Nel Goriziano la conta arriva a 170, una quarantina ancora in sospeso. Qui a dare una mano sono le squadre di Grado e la sera quelle di Ronchi, una situazione che dovrebbe risolversi domani o dopodomani, nella speranza, dicono, che perturbazioni come queste non si ripetano. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento ora. Si è tenuto questa mattina in prefettura a Trieste l'incontro tra i sindacati FIALS, CGL e CISL e la direzione di Asugi, l'azienda sanitaria giuliano-isontina, in merito alla vertenza per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato in scadenza da qui a fine anno. Si tratta di 43 contratti in tutto, scrivono i sindacati in una nota, spiegando che nel mese di luglio, su 7 dipendenti con il contratto in scadenza, solo 3 sono stati prorogati, mentre 4 sono rimasti senza lavoro. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto ad Asugi di confermare tutti i contratti in scadenza, anche al fine, affermano, di non far ricadere sul personale rimanente gli ulteriori carichi di lavoro, con la richiesta di attività aggiuntiva già abbondantemente utilizzata da Asugi, e di assumere il personale necessario dalle graduatorie regionali ancora valide. L'azienda ha confermato inoltre che l'organizzazione delle strutture è in capo alla direzione della Asugi e pertanto le eventuali proroghe dei contratti di prossima scadenza e le eventuali assunzioni saranno valutate caso per caso e potranno essere confermate solo dopo che la Regione autorizzerà Asugi ad andare in deroga al tetto di spesa imposto dalla Regione stessa. Ad oggi le richieste di proroga che l'Asugi ha inviato alla Regione per il rinnovo dei contratti in scadenza a luglio e le assunzioni di dirigenti medici non hanno ancora avuto nessun riscontro. I sindacati chiedono pertanto alla Regione di pronunciarsi in tempi rapidi. Ora la cronaca. Imprenditore percepisce reddito di cittadinanza ed evade oltre 500.000 di euro in 3 anni. A individuarlo sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia, dopo verifiche fiscali a una ditta individuale e a un'associazione sportiva dilettantistica utilizzata dall'imprenditore come schermo per occultare i propri guadagni. In una di queste era stato impiegato anche un dipendente in nero. Tra il 2019 e il 2021 l'imprenditore non avrebbe dichiarato all'erario oltre 550.000 euro di ricavi, sfruttando indebitamente i vantaggi fiscali per le associazioni del terzo settore. Il denaro derivante dall'evasione veniva poi impiegato per il pagamento in contanti del dipendente in nero. Gli accertamenti a tutela del lavoro regolare si sono conclusi con la contestazione di sanzioni pari a più di 250.000 euro se pagate in misura ridotta. Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura di Gorizia per illecita percezione del reddito di cittadinanza e sono state avviate nei suoi confronti le procedure per il blocco del sussidio e il recupero conseguente di circa 20.000 euro. Il Comitato Novo Via di Trieste ha fatto il punto stamattina in una conferenza stampa sullo stato dei procedimenti relativi alla realizzazione della cabinovia che dovrebbe collegare la città con il Carso e ai pareri rilasciati in sede di conferenza dei servizi da parte delle direzioni e servizi regionali coinvolte in merito ai vincoli posti dalla direttiva comunitaria sul sito di Natura 2000 per il Bosco Bovedo. Sono 6 gli stop o i procedimenti aperti che, secondo il Comitato Novo Via, stanno ostacolando la realizzazione della cabinovia voluta dal Comune di Trieste. In primis manca l'approvazione della variante 12 e le deroghe sul vincolo europeo delle aree Natura 2000, su cui le norme nazionali vietano di costruire impianti a fune e dal quale dipendono la VAS, cioè la valutazione ambientale strategica, al momento sospesa, e la VINCA, la valutazione d'incidenza, procedimento già partito. Poi ci sono i ricorsi al TAR, il prossimo appuntamento è previsto per il 6 dicembre, e l'appello delle comunelle che rappresentano la volontà dei residenti al Presidente della Repubblica Mattarella, al quale hanno specificato di non aver ricevuto la documentazione dal comune in sloveno e che l'ultima sentenza ha dato ragione a loro. Un altro aspetto rilevante riguarda l'impatto sulla salute. Se Asugi e la Direzione Salute regionale non hanno ravvisato i potenziali rischi, il medico di famiglia di Opicina, Cinzia Cosini, ha spiegato che da mesi sta trattando persone per insonnia, palpitazioni e depressioni. Si tratta di una valutazione ipotetica e opinabile, ha detto Giorgio Tamburini, ex dirigente sanitario. Sorprende che non ci si preoccupi dell'impatto sulla salute di 300 persone. E poi, quali sarebbero i benefici per il resto della popolazione, dato che l'impatto ambientale sarà notevole, ha chiesto ancora Tamburini. Infatti, è stato detto, il servizio biodiversità, che non si è ancora pronunciato, ha già confermato che si profila un danno ambientale. Intanto il maltempo, con la caduta degli alberi nel tratto della strada del Friuli, dove dovrebbe passare la cabinovia, ha acceso i riflettori sui possibili rischi e i residenti hanno espresso molta preoccupazione. Trieste, Vacciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà in modalità online, oggi a partire dalle 18, l'Open Day del nuovo corso di laurea magistrale in cittadinanza, istituzioni e politiche europee del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, pensato per formare professionisti multidisciplinari caratterizzati dall'attitudine a relazionarsi con una dimensione inter- e sovranazionale. Abbiamo chiesto a Gabriele De Anna, professore di filosofia politica dell'Ateneo Friulano, che ha partecipato all'organizzazione didattica del corso, da quale esigenza è nata l'idea di creare questo nuovo percorso di studi. Nasce un'esigenza. L'esigenza è dettata dalla cittadinanza europea che si sovrappone alle cittadinanze nazionali, offre nuove opportunità, possibilità, nuovi diritti, per esercitare i quali però servono certe conoscenze, certe competenze. Il percorso di studi intende formare le persone perché sappiano sfruttare queste occasioni, diciamo, che l'Europa propone, e quindi intende formare soprattutto in 5 aree diverse: l'area giuridica, l'area sociopolitica, l'area economica, l'area storica e l'area linguistica. Intende, attraverso questo percorso di studi, portare gli studenti a una conoscenza approfondita delle istituzioni europee, dei processi di decisione dell'Europa, di attivazione delle politiche europee e della loro implementazione, ma intende anche dare una certa formazione culturale, perché i laureati saranno in grado di capire le prospettive diverse dei cittadini europei che possono muoversi nell'area europea liberamente attraverso i confini. E quali sono il tipo di professionalità che questo corso mira a formare? Il laureato sarà in grado di, parliamo di una laurea magistrale, sarà in grado quindi di avere posizioni anche di responsabilità fino a posizioni di dirigenza, sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico, all'interno delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche, ma anche delle aziende private, aziende, associazioni, società, che operino sia a livello locale che a livello nazionale che a livello europeo, comunque in posizioni nelle quali, diciamo così, il rapporto con le istituzioni europee e il rapporto con la normativa europea è fondamentale. Questa è un'esigenza molto presente anche per le imprese della nostra regione. Ormai non solo le imprese che lavorano a livello internazionale, ma anche quelle che lavorano a livello nazionale o a livello locale devono fare i conti con l'Europa, con la normativa europea, con i processi di finanziamento europei. E questo vale tanto più nell'ambito della nostra regione, dove si vive a livello transfrontaliero. È Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio ad aggiudicarsi il premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, che si conclude oggi a Gorizia. A incontrare il pubblico alle 18 al Kinemax saranno tutti e tre gli autori della sceneggiatura. Lo stesso Gianni Amelio, Edoardo Petti e Federico Fava, che riceveranno il premio questa sera alle 21.15, sempre al Kinemax. Ieri invece la giornata è stata dedicata al maestro del cinema Marco Bellocchio, che ha ricevuto il premio all'opera d'autore. Marco Bellocchio, regista e autore che ha sempre indagato i capitoli più controversi della storia italiana, ha voluto visitare la piazza transalpina, simbolo dell'Europa prima divisa e poi riunificata. Dalla stazione di Nova Gorizia, con il direttore del premio Amidei Giuseppe Longo, ha osservato il Monte Sabotino, il Monte Santo e le alture, teatro delle battaglie dell'Isonzo. Nelle sale del premio Amidei un'ampia doppia rassegna dei suoi film, poi l'incontro con i critici cinematografici, tra cui due maestri come Paolo Mereghetti e Giampaolo Polesini. Con loro ha ripercorso i suoi ricordi dello sceneggiatore Sergio Amidei, a cui è intitolato il premio. Era un gigante del presente e del passato, era un uomo molto ruvido, un iracondo, uno che s'arrabbiava ed esprimeva anche il suo dissenso in un modo molto più che vivace, ecco. Però ho capito il peso dello sceneggiatore, della collaborazione, del creare insieme. Intanto lo sciopero degli sceneggiatori americani contro l'intelligenza artificiale continua da 2 mesi e mezzo. Con loro ora si fermano anche gli attori. Mi colpisce il fatto che sono molto uniti. Praticamente è una lotta unanime, per questo più efficace. Noi nelle nostre categorie in Italia, quando si è voluto combattere sia i registi che gli sceneggiatori, gli attori, si è fatto sempre in modo piuttosto separato e quindi con minor forza, ecco. Gorizia, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport con il calcio. Prosegue l'ottimo precampionato dell'Udinese. Dopo la vittoria sui ciprioti del Paphos, ieri sera, sempre in Austria, dove sta svolgendo il ritiro, i bianconeri hanno avuto la meglio per 2-1 sui tedeschi dell'Lipsia, formazione che disputerà la Champions League. Ottime le prove dei nuovi arrivati. E dal fronte del calciomercato, Martin Njoten Palumbo torna alla Juventus. È ufficiale, infatti, il passaggio a titolo definitivo del 21enne centrocampista, che anche nella prossima stagione giocherà tra le fila della Juve Next Gen. Terza vittoria in amichevole per l'Udinese nel ritiro in Austria e questa volta l'avversario battuto è da Champions League. All'Lienz i bianconeri battono il Lipsia, terza forza dell'ultima Bundesliga, che l'anno prossimo giocherà appunto nella massima competizione continentale. I tedeschi fanno la partita all'inizio, ma poi è l'Udinese a prendere il comando delle operazioni. A tabellino finiscono una rete di Semura dopo una grande azione, annullata per fuorigioco, e un'occasionissima per Toven, che non trova l'angolo giusto da sottomisura e si fa parare la conclusione del portiere. Il gol arriva comunque alla mezz'ora, se lo inventa Samardžić, una percussione centrale che parte dalla tre quarti, lascia sul posto tutta la difesa sassone e conclude con un destro che si insacca nell'angolo, complice un portiere avversario non ineccepibile. I tedeschi la rimettono in pari solo al 20° del secondo tempo, palla riconquistata a centrocampo e una verticalizzazione che porta Openda nel cuore dell'area bianconera. L'attaccante belga è bravo nel controllo, elude l'intervento dei difensori e scarica in rete nell'angolo alla sinistra del portiere. L'Udinese reagisce e fa della pressione sui difensori l'arma vincente. È proprio un disimpegno sbagliato dei rossoneri che porta ad un'azione confusa con batti e ribatti al limite dell'area. Alla fine Sarraga trova il corridoio per Vivaldo Semedo. Anche il sinistro del baby portoghese non è irresistibile, ma trova sulla traiettoria la deviazione di un difensore che mette fuori causa Zingerle per il 2-1 finale. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Tuffi non al mondo e prima delle europee. La tuffatrice triestina Elisa Cosetti, punta di diamante della nazionale azzurra di high diving, che ha 21 anni appena compiuti, ha già debuttato all'europeo col bronzo e in questi giorni al mondiale di Fukuoka in Giappone chiude la finale tra le prime 10, lasciandosi alle spalle le altre specialiste continentali. A vincere l'australiana Rihanna Ifland, che si conferma così campionessa del mondo. Domani alle 5 ora italiana sarà la volta di un altro triestino, Andrea Barnabà, 19 anni, portacolori della triestina nuoto, già nono agli europei, che sarà impegnato dai 27 metri. Softball alle battute finali, il girone di qualificazione ai mondiali che si sta disputando in regione. Ieri l'Italia ha perso con le Filippine per 6-5, match interrotto 2 sere fa dal maltempo e che ha visto l'Italia 2 volte in vantaggio per poi essere 2 volte recuperate e quindi superate in extremis dalle asiatiche. L'altra sera si era giocato a Butrio per i primi 4 inning, chiudendo sul punteggio di 1-1. Alla ripresa ci si è poi spostati a Castions di Strada. In avvio l'Italia è andata subito avanti di 3 punti, ha subito la prima rimonta e poi ha sciupato un nuovo successivo vantaggio. Sul 5-5 si è andati al supplementare e sono state le Filippine a realizzare il punto decisivo. Le due nazionali torneranno in campo tra poco, di nuovo a Castions, per la sfida tra terza e quarta classificata. Chi vince va al ripescaggio contro la perdente perdente del match tra Canada e Giappone, le prime due squadre del girone. E ora alcuni appuntamenti di oggi, proseguono quelli di Lettere Mediterranee, la sezione letteraria approfondimento del Festival Onde Mediterranee. Stasera doppio appuntamento fra Gorizia e Gradisca di Sonzo. Alle 19 nella biblioteca slovena Damir Feigl di Gorizia verrà presentato il volume, frutto di una collaborazione editoriale transfrontaliera, Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla società slovena al confine italo-sloveno. Alle 21 nel nuovo teatro comunale di Gradisca si terrà la conferenza Onde climatiche sul Mediterraneo, che vedrà protagonista il professor Filippo Giorgi, responsabile della sezione di fisica della Terra all'ICTP di Trieste. Giovani promesse della musica classica internazionale, ancora protagoniste del nuovo appuntamento con il festival Nei suoni dei luoghi, che ritorna questa sera nell'Aula Magna dell'Istituto Statale di Faedis. Alle 20.30 andrà in scena il progetto Danze e canzoni in viaggio per l'Europa, proposto al pubblico dal duo Naima, fondato dal flautista italiano Dario Caporuscio e dalla chitarrista belga Maria Shevchenko. Una pattuglia di 5 cantanti che nel musical hanno vissuto a lungo la loro esperienza artistica, accompagnati da una band musicale, saranno di scena questa sera alle 21 al Castello di San Giusto di Trieste nel galà del musical dedicato al centenario della fondazione Walt Disney. Il concerto metterà in campo le arie dai più bei musical Disney, dal tema del film Pinocchio, che poi diventò la sigla d'apertura di ogni produzione disneyana, ai tanti bellissimi brani tratti dai musical Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Pocahontas, La Sirenetta, Aladdin, Mary Poppins e molti altri. Donne foreste e graisane ancora vive nel ricordo che hanno vissuto la loro esperienza di vita sull'Isola del Sole. Sono quelle a cui è dedicata la lettura recitativa Sguardo sulle donne dell'Agrado di un tempo per la regia di Giorgio Amodeo, che sarà rappresentata questa sera alle 21.15 ai giardini Marchesan di Grado. Per le mostre si inaugura alle 18 alla Sala Comunale d'Arte di Trieste in Piazza Unità d'Italia la mostra Riverberi dell'artista Ingrid Kurisakis, dedicata a personaggi mitologici come Arianna, il Minotauro, Europa, che diventano gli interpreti di alcuni aspetti di azioni umane a volte discutibili. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 20 agosto. Ancora un appuntamento tra musica e parole per l'estate in piazzetta Pescheria del Teatro Verdi di Pordenone, con uno spettacolo concerto in onore del teatro canzone ideato da Giorgio Gaber. Far finta di essere sani, adattato e diretto da Emilio Russo, andrà in scena alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bears, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con il Giornale Radio alle ore 15 e a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.